Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori ed eccoci nuovamente attorno a quella parola di Dio che riscalda i nostri cuori e riscalda la nostra vita. Permettetemi all'inizio di questa nostra puntata mensile, permettetemi di ringraziare Maria perché è grazie a lei che ogni mese noi possiamo trovarci seduti attorno alla parola di Dio e spezzare, condividere un passaggio di questa parola. Ed è a Maria che insieme a voi chiedo quella sapienza che permette anche allo scambio, alla condivisione che c'è tra di noi di essere più feconda, di essere più incisiva nella nostra vita. Quindi chiediamo proprio a Maria di intercedere dallo Spirito il dono di quella sapienza che è una sapienza umile e chiara, capace di penetrare la ricchezza della parola di Dio. Come sapete nel nostro percorso di lezione continua sugli Atti degli Apostoli siamo arrivati al capitolo 6 e questa sera affronteremo insieme una pagina abbastanza ampia di questo capitolo, una pagina anche molto delicata. La volta scorsa abbiamo visto come all'inizio del capitolo 6 la comunità cristiana si trova a fare un passo in avanti di fronte al crescere del numero e ad alcune emergenze che si sono venute a creare all'interno della comunità. Gli apostoli sentono il dovere di fare eleggere, far nominare, far scegliere 7 persone in grado di far fronte ad alcune emergenze. Queste 7 persone che la tradizione individuerà come i primi diaconi della comunità cristiana, anche se dal punto di vista del ministero sono molto diverse a quello che noi oggi intendiamo per diaconato, queste figure saranno decisive per l'identità della comunità, nel senso che saranno quelli che porteranno la comunità di Gerusalemme a riconfigurare la propria identità cristiana. Bene, oggi noi ci dedicheremo sostanzialmente a uno di questi 7, a Stefano. Stefano, il primo, noto come il protomartire, cioè il primo martire della comunità cristiana, il primo che subisce il martirio, su cui si sofferma ampiamente l'autore degli Atti degli Apostoli. Quindi i capitoli che sono a lui dedicati vengono normalmente divisi in 3 grandi momenti. C'è il momento del processo a Stefano, c'è il momento del discorso di difesa di Stefano e c'è la sentenza con la condanna finale. La sentenza che porta poi alla lapidazione di Stefano. Noi questa sera non avremo il tempo di abbracciare e leggere tutto il racconto, ma ci soffermeremo solo sul processo iniziale e sul discorso. Daremo molto spazio al brano degli Atti degli Apostoli, però ci tengo a sviluppare almeno queste 2 parti. Quindi cominciamo subito ascoltando i versetti che raccontano il processo di Stefano. Siamo, come vi dicevo, al capitolo 6, al versetto 8 degli Atti degli Apostoli. Quanti di voi sono nella possibilità di farlo, che in questo momento non si trovano a guidare la macchina o a compiere altri lavori, quindi quanti sono nella possibilità di farlo, vi chiedo di prendere tra le mani un'edizione del Nuovo Testamento o dell'intera scrittura, sarebbe meglio l'intera scrittura, in modo da percorrere insieme, avendo sotto mano il testo, il brano su cui riflettiamo insieme. Quindi cominciamo a leggere i versetti che descrivono il processo a Stefano, sono i versetti da 8 a 15. In quel tempo Stefano, pieno di grazia e di potenza, compiva prodigi e segni grandi tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli provenienti dalla Cilicia e dall'Asia si misero a disputare con Stefano, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Allora sobillarono alcuni uomini che dichiararono: Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Sollevarono così il popolo, gli anziani e gli scribi. Gli piombarono addosso, lo afferrarono e lo trascinarono davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni pronti a dichiarare: quest'uomo non cessa di pronunciare parole contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito affermare che Gesù, il Nazoraio, distruggerà questo luogo e cambierà le usanze che ci ha tramandato Mosè. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio fissarono lo sguardo su di lui e videro il suo volto simile a quello di un angelo. Allora il sommo sacerdote disse: «Le cose stanno proprio così?» Ecco, in questi versetti noi abbiamo la descrizione di Stefano. Già nel momento in cui era stata presentata la sua scelta nella comunità dei discepoli, era stato precisato che Stefano era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Ora, le descrizioni che delineano Stefano sono molto più esplicite. Per ben tre volte viene utilizzato, come dire, una coppia di aggettivi che lo descrivono. All'inizio viene detto che è un uomo pieno di grazia e di potenza. Subito dopo viene detto che compie prodigi e segni grandi tra il popolo. E alla fine viene detto che nessuno poteva resistere alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Stefano, in altre parole, attraverso questa triplice definizione del suo ministero che tocca il suo essere, il suo fare e il suo parlare, viene descritto come una persona che è piena di Spirito Santo. In lui non solo lo Spirito agisce, ma agisce la stessa potenza del risorto. È come se in Stefano la prima azione che lo Spirito Santo ha compiuto è stata quella di configurarlo, conformarlo al Maestro Gesù. E qua c'è il primo grande messaggio per noi. Il primo grande messaggio per noi è che il discepolato autentico, che risplende nella figura di Stefano come primo martire, non è altro che quel discepolato che porta alla conformazione a Cristo. Cosa vuol dire? A permettere allo Spirito di fare un'opera di cesello in noi, in modo tale da rendere il nostro essere pieno di grazia e di potenza, il nostro agire compiva prodigi e segni grandi, il nostro parlare non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui parlava, quindi l'essere, l'agire e il parlare conforme a Cristo. Le espressioni che vengono utilizzate per Stefano sono le stesse che vengono utilizzate da Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, quando durante il ministero pubblico di Gesù descrive quello che Gesù è, fa e dice. Quindi in Stefano risplende la figura di Cristo. L'autentico discepolo è colui nel quale Cristo può essere vivo oggi. Il percorso del discepolato cristiano è un percorso di conformazione a Cristo, quello che Paolo dirà nella lettera ai Galati. Lui dice: soffro finché Cristo non sia formato in voi. Questo è l'obiettivo dell'esperienza cristiana. Ora, questa configurazione a Cristo suscita nei confronti di Stefano tutto un moto di persecuzioni. E queste persecuzioni hanno come ragione di fondo una ragione delle motivazioni ben precise, che anche in questo caso vengono ribadite tre volte. Come tre volte vengono sottolineate le qualità di Stefano, tre volte vengono sottolineati i motivi per cui Stefano viene aggredito. E i versetti che abbiamo ascoltato l'hanno detto molto bene. Lo abbiamo udito pronunciare, dicono gli accusatori, parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Questa era la prima motivazione. Cosa significa contro Mosè e contro Dio? I falsi testimoni lo delucidano, spiegano questo. ha parlato contro questo luogo santo, contro Dio, e contro la legge, il Mosè. E poi lo definiscono ancora, aggiungono ancora, lo abbiamo udito affermare che Gesù distruggerà questo luogo, Dio, e cambierà le usanze che ci ha tramandato Mosè, la legge, la tradizione, la legge nel suo aspetto della tradizione. Quindi il focus che crea problemi alle autorità, e vedremo poi quali sono le autorità che aggrediscono Stefano, il problema che crea Stefano è un problema duplice. Con il suo comportamento, le sue parole, le sue azioni, Stefano sta mettendo in crisi due istituzioni fondamentali dell'ebraismo. Il primo è quello del luogo di culto, il Tempio, il secondo è quello del riferimento nella vita etica quotidiana del Pio ebreo, la legge. Stefano non proclamava la distruzione del Tempio, come Gesù non ha mai proclamato la distruzione del Tempio. Gesù non vuole la distruzione del Tempio, vuole che il Tempio ritrovi la sua anima. Quindi quello che Stefano sta predicando o sta annunciando con il suo comportamento, con le sue parole e le sue azioni, è quello di riportare il luogo di culto al luogo dell'incontro con Dio. E la legge è il secondo punto. Stefano non annulla la legge, come Gesù non è venuto ad annullare la legge, ma a dare compimento. Quindi comporta una rilettura della legge, uno smascheramento di quelle che sono le tradizioni puramente umane che hanno soffocato l'anima di questa legge. Quindi il discepolo di Gesù, qui c'è il secondo messaggio per noi, il discepolo di Gesù è sempre un uomo, un credente che deve vigilare su questi due punti, il suo rapporto con il luogo santo, il suo rapporto con il comandamento, con la norma etica, perché il rischio del credente, come era il rischio per il popolo ebraico, il rischio che viene messo in evidenza dal protomartire Stefano, il rischio è sempre quello di assolutizzare il luogo o la legge perdendone l'anima. Ieri nella liturgia ambrosiana nella liturgia ambrosiana siamo già entrati nel periodo di Avvento con ieri era già la prima domenica di Avvento per la nostra diocesi ambrosiana e il brano che ci è stato presentato dalla liturgia come riflessione, come meditazione, era il discorso apocalittico di Gesù nel Vangelo di Marco, che si apre con quell'esclamazione da parte dei discepoli che dice, osservando, stando seduti di fronte al Tempio, dicono a Gesù, ma guarda che pietre, guarda che costruzioni. E Gesù risponde, di queste pietre non resterà, di tutto quello che vedete non resterà pietra su pietra che non sia distrutta. Ecco, Gesù con questo discorso non sta dicendo che lui vuole la distruzione del Tempio, sta invitando i suoi discepoli a fare attenzione, a non fermarsi alla scorza delle cose, a non fermarsi a quell'involucro, a quella carta lucente che avvolge le cose, ma andare sempre dietro la scorza, verificare se dietro la scorza c'è l'anima. Quello è ciò che deve stare a cuore ai discepoli, quello è la dimensione, quella è la dimensione che deve lasciare a bocca aperta. Trovare l'anima delle cose, questo deve stare a cuore al vero credente. Ed è su questo che Stefano si batte, suscitando la reazione di un gruppo ben preciso. Coloro che reagiscono a Stefano, vengono precisati, sono quelli della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli provenienti dalla Cilicia e dall'Asia. Sono questi che si mettono a disputare con Stefano. Chi sono? Non sono niente meno che i farisei che sono venuti a Gerusalemme per studiare la legge. Farisei che provengono dalle nazioni straniere, farisei quindi di lingua greca, che si trovano a Gerusalemme probabilmente per radicare ulteriormente le loro convinzioni. È il percorso che farà Saulo. Saulo era venuto a Gerusalemme per studiare. quelli che compiono questo percorso, pur venendo da ambienti che erano ambienti di incrocio culturale, come la Cilicia, l'Asia, la Cirenaica, il mondo di Alessandria, pur venendo da mondi pagani, in genere erano quelli che erano più esposti alla tentazione di un radicalismo chiuso, come può accadere oggi, di fronte al timore del confronto con culture diverse dalle nostre, si finisce per diventare rigidi e chiusi. E questo era proprio il rischio, la tentazione che correvano proprio queste persone. Lasciamo un attimo il processo di Stefano, lasciamo un breve stacco musicale, dopodiché entriamo e vediamo qual è la risposta che Stefano dà al sommo sacerdote quando, rivolgendosi a lui, gli dice: le cose stanno proprio così. Lasciamo un breve stacco musicale e poi ascoltiamo la risposta di Stefano. Ecco, di fronte alla provocazione di questi farisei che si sono messi a disputare con lui e che vogliono portare Stefano alla condanna, tra l'altro la scena riprende in modo palese gli episodi dell'arresto e della condanna a morte di Gesù, proprio per dimostrare che in Stefano risplende Gesù stesso. La risposta di Stefano è una risposta articolata, il discorso con cui ci confrontiamo è uno dei discorsi più lunghi degli Atti degli Apostoli, alcuni dicono che sia proprio il più lungo discorso degli Atti degli Apostoli, e Stefano non fa dei ragionamenti astratti, ma semplicemente pone davanti a questi farisei che sono conoscitori della Torah, sono conoscitori della Scrittura, pone davanti l'esempio di tre grandi, i tre grandi punti di riferimento della storia di Israele, tutti attinti dalla Torah, da quel Pentateuco che è il testo di riferimento principale dell'ebraismo. E i tre grandi protagonisti sono Abramo, Giuseppe e Mosè. Facendo riferimento a queste tre figure, lui sottolinea alcuni elementi che permettono ai farisei di entrare in se stessi e vedere qual è il comportamento di Dio nei confronti del luogo santo e nei confronti della legge. Cominciamo a ascoltare la risposta di Stefano per quanto riguarda la figura di Abramo. Ed egli rispose: fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve al nostro padre Abram quando era in Mesopotamia prima che egli si stabilisse a Carran, e gli disse: esci dalla tua terra e dalla tua gente e va nella terra che io ti indicherò. Allora, uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì a Carran. Di là, dopo la morte di suo padre, Dio lo fece emigrare in questa terra dove voi ora abitate. E non gli diede in essa alcuna proprietà, neppure quanto l'orma di un piede, ma promise di darla in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui, sebbene non avesse ancora un figlio. Poi Dio parlò così: la sua discendenza sarà pellegrina in terra straniera, la serviranno e l'opprimeranno per 400 anni, ma il popolo di cui saranno schiavi lo giudicherò io, dice Dio. Dopodiché usciranno e mi presteranno un culto in questo luogo. Poi gli diede l'alleanza della circoncisione. Così generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. Allora, presentando la figura di Abramo, siamo al capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, i versetti da 1 a 8, presentando la figura di Abramo, Stefano sottolinea subito due cose. La prima riguarda il luogo di culto. Il luogo di culto non deve trarre in inganno il fedele, come se Dio lo incontrasse solo lì. Se avete ascoltato con attenzione, di Abramo viene sottolineata una cosa. Abramo è il viandante per eccellenza, che non possiede mai un pezzo di terra, addirittura c'è una sottolineatura significativa da parte di Stefano, dice che Dio non gli diede alcuna proprietà neppure quanto l'orma di un piede, ed effettivamente è così, Abramo non ebbe mai un pezzo di terra, neppure la tomba, perché la tomba a tutti i costi la volle comprare, la tomba per sua moglie, la volle comprare dagli abitanti della regione, perché voleva che almeno quella fosse sua, ma alla fine nemmeno quella sarà sua, nemmeno quella. Quindi è il Dio che accompagna Abramo nelle sue peregrinazioni ed è un Abramo peregrinante. Quindi la prima provocazione che Stefano lancia è attenzione a esasperare o dare un'importanza eccessiva al luogo di culto in quanto luogo di culto. Il luogo di culto ha senso nella misura in cui favorisce l'incontro con Dio, ma il nostro Dio non è legato al luogo di culto in sé. Il nostro Dio è un Dio che cammina con il suo popolo e viene spontaneo qua il collegamento con quel momento della storia della salvezza, ci spostiamo ovviamente più avanti nei secoli, il momento della monarchia, quando Davide si lamenta con Natan e dice: bene, io abito in una casa di cedro, mentre Dio non ha ancora un luogo di culto dove poter essere una casa dove poter essere adorato, venerato, incontrato. E il profeta Natan gli dice: bene, fai quello che hai in mente di fare, ma di notte il profeta viene svegliato da Dio e gli dice: eh no, cosa fai quello che hai in mente di fare? Torna da Davide e riferisci queste parole a Davide: guarda che io non ho mai avuto bisogno di casa, sono sempre stato il Dio che ha camminato con il popolo nelle sue peregrinazioni nel deserto, nel periodo dei giudici, perché mi vuoi costruire una casa? Sono io che farò per te una casa, cioè che ti genererò una discendenza, ma non ho bisogno che tu mi costruisca una casa. Quindi la sottolineatura che viene fatta da parte di Stefano è qualcosa che non mira alla distruzione del Tempio, quello no, ma cerca di relativizzare quell'assolutismo del Tempio che aveva ovviamente dei risvolti politici ed politico ed economici, che è proprio questo che vuole smantellare il discorso di Stefano. Quindi riguardo al culto sottolinea questa cosa, riguardo invece alla legge la provocazione è ancora più forte, per una duplice ragione. Chiamando in causa Abramo viene presentato come modello dell'incontro con Dio un uomo pagano. Quando Abramo viene chiamato da Dio, Abramo appartiene a una famiglia che venera le divinità. È chiaro che lì c'è un passaggio, però questo passaggio è effetto della pura grazia di Dio, non è il frutto dell'osservanza della legge, cioè Dio non si rivela ad Abramo perché Abramo è un osservante della legge. Ma Abramo diventa un osservante di quella che è la via tracciata da Dio perché è oggetto di un amore gratuito che lo precede. Quindi quello che Stefano vuole sottolineare, ripercorrendo la storia di Abramo, è questo Dio che ti precede, non è solo un Dio che cammina nella tenda, ma è un Dio che ti precede, che ti incontra, e da lì scatta l'imperativo morale, non viceversa. Non è la legge che precede quella che è il comportamento etico, è l'inverso. Il comportamento, la legge diventa la risposta dell'uomo a un Dio che ti precede nell'amore. Tanto vero che l'emblema essenziale di risposta che Abramo decide poi di dare a Dio è stipulato da quel segno nella carne, che diventa quindi un segno eterno della circoncisione. La circoncisione diventa non solo un segno nella carne, ma un segno nella discendenza, perché va a toccare con un segno incisivo sotto tutti i punti di vista, è l'organo che è deputato a generare, alla generazione. Quindi sarà tutta la discendenza da questo momento in poi che porterà sulla propria pelle il marchio dell'alleanza con Dio. E questo marchio dell'alleanza è il segno di una risposta sempre ad un amore che precede. Ecco quindi il primo modello, la prima provocazione nella risposta di Stefano. Stefano cita l'esempio di Abramo. A chi lo vuole condannare dicendo che lui parla contro il Tempio e contro Mosè, contro il luogo santo e contro la legge, Stefano dice: guardate che io non sto facendo altro che appoggiarmi sull'inizio di quello che è la Torah. La Torah inizia la sua storia così, prima del luogo di culto, prima della legge, c'è un percorso che si basa su un Dio che accompagna come viandante il suo eletto, Abramo, e un Dio che precede con l'amore il suo eletto, suscitando poi la conversione del suo cuore. Quindi questa è la prima risposta. Questa prima risposta ne segue una seconda, che ha come protagonista Giuseppe. Anche qui, prima di ascoltare la risposta dei versetti 9 e 16 che riguardano proprio il patriarca Giuseppe, lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo che chi può rileggere proprio la prima parte della risposta dedicata ad Abramo, quella dei versetti da 1 a 8. Il racconto di Stefano, dopo essersi soffermato su Abramo, continua proprio con l'altro patriarca, il figlio di Giacobbe. Ascoltiamo il testo, sono i versetti, come vi dicevo, da 9 a 16. I patriarchi, invidiosi di Giuseppe, lo vendettero all'Egitto, ma Dio era con lui. Lo liberò da tutte le sue sventure e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone, re d'Egitto, e lo nominò governatore dell'Egitto e di tutta la sua corte. Ma sopraggiunse una carestia su tutto l'Egitto e in Canaan la sofferenza fu così grande che i nostri padri non trovavano di che nutrirsi. Giacobbe però aveva saputo che in Egitto c'era grano, mandò i nostri padri una prima volta. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai fratelli e il faraone venne a conoscenza della sua origine. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutta la sua parentela, 75 persone. Giacobbe discese in Egitto, dove morì. I nostri padri furono trasferiti a Sichem e deposti nel sepolcro che Abram aveva acquistato per denaro dai figli di Emor a Sichem. Ecco, la seconda sottolineatura riguarda la figura di Giuseppe. Allora, anche in questo caso Giuseppe viene menzionato da Stefano come risposta alla duplice accusa che riguarda il luogo santo e la legge. Notiamo, viene scelto un patriarca che ancora non ha niente a che vedere con la terra per eccellenza dove risplende il Tempio. Addirittura la figura di Giuseppe è strettamente legata, nella descrizione che ne fa Stefano, è strettamente legata all'Egitto, al punto tale che l'Egitto, che rappresenta o dovrebbe rappresentare di per sé il nemico per eccellenza, diventa il luogo della provvidenza. Lì Giuseppe non solo permette alla sua famiglia di resistere alla carestia, ma l'Egitto diventa la casa, la dimora dove tutta la sua parentela, 75 persone in tutto, trovano accoglienza e vita, fino al momento in cui tornano, cioè il corpo di ciascuno nella morte torna nel territorio di partenza. Allora, notate che nella storia di Giuseppe vengono sottolineate due cose. La prima cosa è il fatto che nella sua discesa in Egitto Dio era con lui. Quindi Dio non abita solo il grande monte Sion, dove risplende il Tempio Santo, ma Dio abita nelle parti più basse della terra. Tenete presente che il percorso verso l'Egitto viene sempre presentato nel testo biblico come una discesa. E tenete presente che ci sono dei passaggi nella scrittura che fanno parte soprattutto del periodo mosaico, quindi Esodo, Deuteronomio, dove l'andare in Egitto viene visto come una maledizione, perché viene visto come una regressione nella terra della schiavitù. E gli stessi profeti, nel periodo profetico, gridano contro coloro che cercano rifugio nell'Egitto, perché è come tornare comunque a uno stato di vita dove che è rappresentato dall'ambiguità, dalla schiavitù, dalla prigionia da cui il Signore ha liberato. Nella descrizione di Stefano tutto questo non c'è. L'Egitto viene presentato come il luogo della provvidenza per sottolineare proprio che la tradizione biblica della Torah non presenta come luogo dell'incontro con Dio solo il Tempio, ma rappresenta tutta quell'esperienza umana in cui l'uomo si viene a creare, anche quella più bassa. Nei confronti della legge invece cosa viene sottolineato? Viene sottolineato il fatto che pur in un contesto avverso pagano, perché l'Egitto rappresenta un contesto avverso pagano, Giuseppe, per il fatto che aveva Dio con lui, riesce a mantenere alla sua famiglia l'identità di partenza, quindi essere se stessi pur in mezzo a contesti difficili. Ecco la provocazione che Stefano lancia a questi farisei provenienti dalla Cilicia, dall'Asia, dalla Cirenaica, che di fronte, provenendo da contesti avversi, pensano di difendere la loro identità chiudendosi a riccio. E la risposta di Giuseppe è ben altra. Non è questa la soluzione. La cultura non è quella dello scontro, per evocare parole a noi contemporanee, ma è quella dell'incontro dove ciascuno può rimanere se stesso. Giuseppe non rinuncia alla propria identità perché è andato in Egitto, ma proprio fattosi forte della sua identità, diventa con grazia e sapienza il consigliere del faraone che lo nomina governatore dell'Egitto e di tutta la sua corte, dice il testo. Quindi l'osservanza alla legge va come dire, a toccare qualcosa che plasma l'individuo, non si può imporre come un gioco sulle spalle della gente, deve essere piuttosto qualcosa che risplende nell'identità del singolo. E Giuseppe in questo diventa un modello che favorisce poi un percorso di salvezza non solo per sé, ma anche per i suoi fratelli e la sua famiglia. Dopo la figura di Giuseppe, la terza figura che viene citata, menzionata da Stefano, è la figura di Mosè. E su Mosè Stefano si ferma alquanto, perché attorno a Mosè vengono a declinarsi bene, viene a declinarsi molto bene il discorso della legge. E allora Stefano vuole essere molto preciso. Ed è interessante notare come la vita di Mosè viene raccontata, perché in tutti i versetti che dedica al grande profeta, e sono più di 30 versetti, lui praticamente ripercorre la storia di Mosè suddividendola in archi temporali di 40 anni ciascuno. Ci sono i primi 40 anni che Mosè svolge nell'Egitto, c'è un secondo arco di 40 anni che vengono svolti nella casa di Jetro, quando forma la sua famiglia, e gli ultimi 40 anni che rappresentano il momento della liberazione di Israele e il cammino verso la terra promessa. Ascoltiamo questi momenti della narrazione. Cominciamo con i versetti da 17 a 22 che raccontano i primi 40 anni di Mosè. Mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatto solennemente ad Abram, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché salì al trono in Egitto un altro re che non conosceva Giuseppe. Questi, adoperando l'astuzia contro la nostra gente, oppresse i padri fino a far abbandonare i loro bambini perché non sopravvivessero. In quel tempo nacque Mosè. Era bellissimo. Fu nutrito per 3 mesi nella casa paterna. Poi, essendo stato abbandonato, lo accolse la figlia del faraone e lo allevò come un figlio. Così Mosè venne educato in tutta la sapienza degli egiziani ed era efficace in parole ed in opere. Primi 40 anni di Mosè. Mosè viene salvato grazie allo stratagemma della madre, viene accolto dalla figlia del faraone, viene allevato come un figlio. La sapienza che lui possiede, la sapienza egiziana, che lo rende efficace in parole ed in opere. Notiamo anche qua le parole e le azioni, proprio come il percorso che ha fatto Stefano. Dopo questi 40 anni c'è la seconda fase che viene narrata nei versetti 23 e 29. A 40 anni gli venne il desiderio di visitare i suoi fratelli israeliti e, vedendo un tale trattato ingiustamente, ne prese le difese, vendicò l'oppresso uccidendo l'egiziano. Pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio li avrebbe salvati per mano sua, ma essi non compresero. Il giorno dopo si presentò ad alcuni che litigavano, cercava di esortarli alla pace, dicendo: «Uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro?» Ma colui che faceva torto al vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito capo e giudice tra di noi? Vuoi forse uccidermi come ieri hai ucciso l'egiziano?» Mosè a queste parole fuggì e si recò da straniero in terra di Madian, dove generò 2 figli. Allora, notiamo anche qui, i primi 40 anni si aprono con il gesto della salvezza del piccolo neonato dal cesto attraverso la figlia del faraone. Il secondo ciclo di 40 anni, quindi quando Mosè ha 40 anni, si apre con questo momento delicatissimo, dove Mosè, nonostante la sua efficacia in parole ed in opere, non riesce ad ottenere nulla proprio dai suoi fratelli, anzi è costretto alla fuga. E in questa fuga finisce nel territorio di Madian, dove genera 2 figli. Qua si fa riferimento alla famiglia di Jetro, il sacerdote pagano. Ed entriamo nel terzo periodo dei 40 anni. Passati i 40 anni, gli apparve nel deserto del Sinai un angelo tra le fiamme di un roveto ardente. Mosè a quella visione fu preso da timore. Mentre si avvicinava per osservare meglio, udì la voce del Signore: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abram, di Isacco e di Giacobbe». Esterrefatto, Mosè non osava guardare, ma il Signore gli disse: «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove tu stai è terra santa. Ho visto l'oppressione del mio popolo in Egitto, ho udito il suo gemito e sono sceso a liberarlo. Ora vieni, ti manderò in Egitto». Quel Mosè che avevano respinto dicendo: «Chi ti ha costituito capo e giudice?» Proprio lui Dio mandò come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Egli lo fece uscire operando prodigi e miracoli nella terra d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli di Israele: «Dio vi farà sorgere un profeta tra i vostri fratelli al pari di me». Questi è colui che, mentre erano in assemblea nel deserto, fu mediatore tra l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri. Egli ricevette parole di vita da trasmettere a noi, ma a lui i nostri padri non vollero obbedire, anzi lo respinsero e desiderarono tornare in Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli dei che camminino davanti a noi. A quel Mosè che ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto non sappiamo infatti cosa sia successo». In quei giorni fecero un vitello e offrirono un sacrificio all'idolo, rallegrandosi per le opere delle loro mani. Ma Dio si ritirò da loro e lasciò che venerassero l'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti: «Mi avete forse offerto vittime e sacrifici per 40 anni nel deserto, casa di Israele? Voi avete preso la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, immagini che vi siete fatti per adorarle, perciò io vi deporterò di là, di Babilonia». I nostri padri nel deserto avevano la tenda della testimonianza, che colui che parlò a Mosè aveva ordinato di fare secondo l'immagine che Mosè aveva visto. Dopo averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè la introdussero nel territorio occupato dai pagani, che Dio cacciò davanti ai nostri padri fino ai giorni di David. Questi trovò grazia presso Dio e chiese di trovare una dimora per la casa di Giacobbe. Salomone infine gli edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta: «Il cielo è il mio trono e la terra scabello dei miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Tutto questo non l'ha forse fatto la mia mano?» Allora, nel raccontare il terzo ciclo di 40 anni, la sottolineatura è sempre a questo Dio che cammina in mezzo ai suoi, che scende in Egitto per liberarli, un Dio che si serve della mediazione di un uomo, Mosè, che tuttavia non viene riconosciuto. Eppure in quella mediazione ci sta tutto, tutto. E nel momento in cui Mosè riesce a condurre il popolo nella terra della promessa, viene evidenziato da Stefano, la tentazione è sempre qual è? È quella di far entrare il mistero di Dio in un'immagine o in un luogo, prima nel vitello e poi nel luogo sacro per eccellenza, che è il Tempio. E anche qui Stefano racconta, riprendendo l'episodio di Davide, quando prima di Salomone viene fermato nell'edificazione della sua casa. E arriva poi la parte conclusiva del discorso. Stefano chiude il suo discorso dicendo: «Testardi e incirconcisi di cuore e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Hanno ucciso quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete traditori e assassini, voi che avete ricevuto la legge attraverso il ministero degli angeli e non l'avete osservata». La chiusura di Stefano è una chiusura a effetto. Lui, dopo aver percorso la storia di Abramo, la storia di Giuseppe, la storia di Mosè, praticamente vede in quei farisei che lo attaccano coloro che a queste grandi figure, soprattutto alla figura di Mosè, si sono opposti. Loro che cadono in nome della legge e in nome del Tempio, cadono nell'errore più grave, quello di perdere ciò che c'è come anima dietro la legge e dietro il Tempio, fino al punto da diventare persone che portano una condanna a morte duplicata, perché il giusto verso il quale hanno già espresso la loro violenza ovviamente è Gesù, ma ora questo Gesù rischia nuovamente di essere condannato a morte nella figura stessa di Stefano, che ha cercato con questo discorso di aprire gli occhi ai farisei. Ecco, noi questa sera non riusciamo ad andare avanti nel racconto, lo dovremo posticipare alla trasmissione successiva. Però quello che sta a cuore, che ci deve stare a cuore nella condivisione di questa sera, è proprio la sottolineatura di Stefano. Stefano come modello del discepolo che vive la conformazione a Cristo, Stefano come modello di colui che sente la presenza di Dio in ogni aspetto della vita e vive la legge come risposta ad un amore che lo precede. Abramo, Giuseppe e Mosè nel loro percorso di vita, un percorso per tutti e tre non facile, diventano un pochino coloro che hanno preparato questo messaggio di cui ora Stefano si fa portavoce e che trova in queste tre figure conferma. Ecco, cari ascoltatori, quello che gli Atti degli Apostoli ci presentano nel nostro itinerario di lezio continuo. Ora è giunto il momento vostro. Come sapete, la seconda parte della nostra trasmissione è dedicata alle domande di voi ascoltatori, alle vostre brevi riflessioni, ai vostri interrogativi. E come dico sempre, questa seconda parte è importante quanto la prima, perché le vostre sottolineature permettono spesso di scavare ulteriormente il testo e poter approfondire alcuni aspetti che rischiano di sfuggire. Quindi lasciamo uno stacco musicale in modo che la regia vi possa dare il numero di telefono con il quale contattarmi, dopodiché continueremo la nostra riflessione attraverso i vostri interventi. Un breve stacco musicale. Sì, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, Don Giacomo. Sono Maria Teresa, chiamo dalla provincia di Como. Sono una capitalista. Sì, mi dica. Per cortesia, adesso, 2014, sapendo che nella presenza del Signore Gesù abita la pienezza della divinità, se io dico ai miei ragazzi di recarsi alla Chiesa perché lì c'è il Signore, e sto sbagliando? Per cortesia a me. Certo. Perché so che Dio è dappertutto, però se io dico ai miei bambini di recarsi a pregare, a ascoltare la parola di Dio, a ricevere certamente l'Eucaristia, sono fuori strada, la ringrazio, l'ascolto per radio. Grazie mille Maria Teresa di questa domanda e sono ben contento che alle nostre riflessioni, ai nostri approfondimenti ci siano anche dei catechisti, no? Che si pongono l'interrogativo. Già questo è un grande dono, perché è segno di un ministero svolto nella comunità con grande senso di responsabilità. Allora, la domanda di Maria Teresa è molto, molto chiara. Si chiede se sbaglia a dire ai suoi ragazzi di andare in chiesa per incontrare il Signore. Assolutamente no, certo che non sbagli Maria Teresa. Quello che noi abbiamo messo in evidenza nel discorso di Stefano è l'assolutizzazione del Tempio. Cioè, è chiaro che il luogo santo è il luogo per eccellenza dove si incontra il Signore, ma non perché è un edificio. Quello che noi dobbiamo aiutare a superare è l'immagine dell'edificio in quanto tale, cioè l'edificio, la chiesa, il tempio, il luogo sacro, la cappella, ha senso se quelle pietre hanno come corrispondenza le pietre vive di chi le abitano. Una chiesa è una chiesa viva se c'è una comunità che prega e vive in quel luogo sacro e che uscendo da quel luogo sacro porta il Signore che ha incontrato nella vita quotidiana. Altrimenti noi corriamo un duplice rischio. Il primo, se la comunità che dimora in quel luogo sacro non è una comunità viva, ma una comunità che va solo a pagare il dazio della celebrazione domenicale, ma senza creatività, senza gioia, senza che cosa, cioè non è una comunità viva, cioè Dio lo si incontra in una comunità viva. E ovviamente il luogo dell'incontro privilegiato è quello di questa comunità dove viene spezzato il pane dell'Eucaristia, che è Dio presente in noi oggi, dove viene ascoltata la parola che Dio ci rivolge a noi oggi, dove si vive la vita sacramentale che è Dio che ci rinnova oggi, ci dona il suo spirito oggi. Certo che quello è un luogo vitale, però questo Dio lì ci incontra per mandarci e aprire i nostri occhi sulla sua presenza nel quotidiano, perché se io celebro i misteri del Cristo che si rivela a me nell'Eucaristia, ma appena esco di chiesa ignoro il povero che mi tende la mano, ignoro il fratello della mia famiglia con cui ho avuto delle discussioni, ignoro la sorella o il fratello della mia comunità a cui non sto simpatico, che non se la sente di parlare con me per le mille ragioni di questo mondo. E allora che cosa ho celebrato? Cioè, la sottolineatura di Stefano è una sottolineatura importante, perché ci fa capire come la prima comunità cristiana, che badate bene, frequentava ogni giorno il Tempio e poi spezzava il pane nelle case, cioè la prima comunità cristiana che vive a Gerusalemme non rinuncia al Tempio, continua ad andare nel Tempio, ma si rende conto che quella che era la ritualità che circondava il luogo sacro per eccellenza che era il Tempio non bastava più. Quella ritualità doveva esprimersi in tutta una serie di modi, stili di vita, di gesti e di parole che in Stefano risplendono. Quindi è questa la sottolineatura che deve essere fatta e che evita anche il rischio di quella dicotomia di una spiritualità o di un cammino cristiano disancorato dalla vita. In questo penso che chi come te, Maria Teresa, ha la grande responsabilità della formazione catechistica, qui c'è proprio un ruolo molto dedicato, perché è importante aiutare i ragazzi a entrare in una visione della fede che sia incarnata nell'oggi. Quindi il ruolo del catechista è quello di aiutare ad approfondire la parola di Dio, aiutare a celebrare con consapevolezza il mistero eucaristico, ma per poi portare tutto questo nella vita quotidiana, nell'oggi della storia. Ne abbiamo ovviamente un esempio molto forte nel Santo Padre. Il Santo Padre ogni domenica, fateci caso, ogni domenica l'Angelus ci riporta nella quotidianità concreta dell'oggi, richiamando la comunità cristiana che ha appena celebrato l'Eucaristia. Ieri, con la provocazione forte sull'emergenza sociale, che se non viene presa sul serio può trasformarsi in qualcosa di molto più grave, e ribadendo che la Chiesa propone e porta avanti la cultura dell'incontro, non quella dello scontro. È chiaro che è un riportare ciò che è stato celebrato e vissuto nella quotidianità, perché il Dio che risplende nel Tempio è lo stesso Dio che accompagna il popolo fino a scendere in Egitto per liberarlo. Quindi sono le due dimensioni. Quindi niente distruzione o favore dell'uno al posto dell'altro, ma sono due elementi che devono camminare insieme. L'importanza del luogo di culto è per una vita più autentica nel quotidiano, ma tutti e due sono ambiti, luoghi dove io incontro il volto di Dio. Grazie Maria Teresa per questa tua importante domanda. Pronto? Pronto? Sì, mi chiamo Mi chiamo Luigina Seibene e chiamo da Abano Terme. Volevo porle questa domanda, perché io ho sentito una catechesi da una personalità molto importante della Chiesa, da un monaco, che parlando di Mosè diceva che la figura non è una figura reale, è una figura emblematica. E a me è rimasto, non l'avevo mai sentita questa affermazione, non è che mi abbia cambiato la fede. E diceva che a Mosè dobbiamo dare, come dire, l'onore, è lui che ci ha rivelato il nome di Dio, che è Io Sono. Ecco, lei mi può spiegare, padre, più esattamente, così ho un'idea chiara, una volta per sempre. Certo, certo. Cara Luigina, la ringrazio per la sua domanda, che va a toccare due aspetti importanti, no? Quello di Mosè come figura storica e quello del nome di Dio. Allora, cominciamo con il riferimento alla figura di Mosè. Ovviamente, quando i testi sacri vengono scritti, nei testi sacri dobbiamo tenere presente che confluiscono diversi racconti, diverse tradizioni, diverse esperienze che hanno caratterizzato il popolo. Ora, queste esperienze vengono, ordinate, messe in ordine, confluiscono in un racconto che noi oggi leggiamo come un racconto unico, un racconto unitario che ha una sua coerenza. Ora, noi oggi abbiamo una concezione della testimonianza storica, del racconto storico, del racconto dei fatti, che si basa su alcuni criteri di veridicità che non sono uguali a quelli che c'erano al tempo in cui sono stati scritti questi racconti. Per cui, se noi dobbiamo dire, ma Mosè, il Mosè che viene raccontato nel libro dell'Esodo, del Levitico, del Deuteronomio, dei Numeri, è lo stesso Mosè che ha vissuto? Ma probabilmente nel dettaglio, forse non tutto è andato proprio così, cioè anche l'autore sacro ci mette qualcosa del suo, ci mette qualcosa delle tradizioni che ha raccolto, delle informazioni che ha ricevuto, dell'esperienza tramandata dal popolo a cui appartiene. Però non possiamo dire che quel Mosè non è esistito, questo assolutamente no. Cioè, sicuramente dietro il racconto sacro, almeno dal periodo di Abramo in poi, noi possiamo dire che c'è tutta una serie di vicende storiche vissute da un popolo, da una famiglia prima, da un clan poi, da un popolo poi, che è diventato fondamentale per la storia di quel popolo. Che poi le cose nel dettaglio siano venute in un modo o nell'altro, quello nessuno lo può dire, cioè noi ci basiamo su questa testimonianza. Però la domanda che il credente si deve porre non è tanto se Mosè è esistito davvero così oppure no, se Mosè balbettava oppure non balbettava, non è questo, ma il racconto della Bibbia è quello di dire, bene, questa esperienza che ha alla base l'incontro di un uomo concreto con Dio, cosa dice a me, come nutre il mio cammino di fede, sapendo che non è che qui si raccontano favole, non è per essere andati dietro a favole, ma qua si raccontano esperienze concrete di un uomo con Dio, è entrare nella luce, è entrare nel cuore di quell'esperienza, quello che è importante, al di là dei dettagli, perché a volte un dettaglio può essere enfatizzato o meno dal narratore per far arrivare un messaggio concreto al lettore. Quindi, cara Luigina, io sono certo che anche quel monaco importante, che penso di intuire anche chi sia, quel monaco importante l'obiettivo di quel monaco non era dire Mosè non è esistito, assolutamente no, l'obiettivo di quel monaco era dire guardate, dietro la figura di Mosè in quanto tale sono confluite, come dire, tradizioni diverse che hanno poi, come dire, confezionato bene quella figura in modo che potesse diventare, potesse tradursi in un racconto che trasmettesse veramente il cuore di quell'esperienza, perché è quella che conta, è l'esperienza che conta, noi dobbiamo fare l'esperienza di questi grandi profeti. Teniamo tra l'altro presente che Mosè, così come viene narrato nella Torah, nel Pentateuco, è una delle figure più citate anche dal Nuovo Testamento, è una delle figure con cui dialoga lo stesso Gesù, quindi è una figura da prendere totalmente sul serio, pienamente sul serio, perché se ha illuminato la vicenda di Gesù, quanto più deve illuminare la nostra. Quindi questa è la prima cosa. Secondo aspetto, che è molto importante soprattutto per noi che ci prepariamo o siamo già nel tempo dell'Avvento, è il nome di Dio. Il nome di Dio che viene rivelato sul Monte Santo, sul Sinai, è il nome che manifesta la presenza di Dio. Dio si presenta come colui che è, come colui che vive accanto a noi. E come diceva bene qualcuno, cioè noi nell'Avvento non celebriamo il ritorno di Dio, non celebriamo il ritorno di Cristo, non attendiamo il ritorno di Cristo, semplicemente perché Dio non se n'è mai andato, Gesù non se n'è mai andato, Gesù attendiamo la manifestazione nella gloria di questo Cristo, ma Gesù è presente nel nostro quotidiano, Lui è il volto di quel Dio che si è presentato come colui che sono. Quindi Dio è presente nel mio oggi, Lui è il presente, che però si deve manifestare nella gloria. Ora quello che il suo modo di essere presente avviene nell'umiltà della nostra situazione umana, ma avviene il giorno in cui questo Dio in Cristo si manifesterà nella gloria, farà verità sulle cose e sulle persone e ristabilirà quella giustizia che ora non vediamo. Questa è la manifestazione gloriosa che si attende nell'Avvento e si attende con fiducia perché Dio si è già manifestato, si è manifestato nella storia di Abramo, di Giuseppe e di Mosè e si è manifestato nella carne in Cristo vivendo ora in mezzo a noi. Quindi grazie di cuore Luigina per questa tua domanda che era altrettanto importante, grazie. Pronto? Pronto, buonasera Don Giacomo, sono Bruno da Napoli. Mi dica Bruno. Sì, buonasera, io le volevo chiedere, buonasera. Il patto del Sinai si fonda su un duplice impegno, quello della promessa di Dio, della terra promessa da una parte e Israele dall'altra. Israele deve osservare la legge per mantenere la fedeltà a questo patto. Una legge fatta di comandamenti, statuti e precetti. Noi siamo abituati a pensare che i comandamenti siano solo il decalogo, mentre invece dal Deuteronomio e soprattutto gli ebrei sanno che affermano che la legge è fatta non solo dai comandamenti, ma da tutta la serie di statuti e precetti contenuti nella Torah, cioè nel Pentateuco, quello che noi chiamiamo il Pentateuco. Ora vengo alla domanda, Paolo dice che noi, cioè i non giudei, non siamo sotto la legge. In questo patto che Dio fece con Mosè e con Israele, cosa resta valido per noi? Certo, allora la ringrazio Bruno per questa domanda, parto nella risposta, parto dalla premessa che lei ha fatto per poi arrivare alla domanda conclusiva. Lei parte da una premessa dicendo il patto del Sinai è un patto bilaterale, nel senso che Dio si impegna a guidare il popolo, dona al popolo la legge, il popolo si impegna ad osservarla. È vero fino a un certo punto questo, perché la bilateralità dell'alleanza non è una bilateralità, come dire, in equilibrio. C'è una sproporzione immensa rispetto dell'impegno di Dio rispetto a quello dell'uomo. E questo è evidente nella Torah, nel Pentateuco, fin dall'inizio di questa storia. Non a caso viene sempre citato Abramo da Stefano e anche verrà citato, utilizzato da Paolo questa immagine. Perché? Perché Abramo è l'emblema per eccellenza della gratuità. C'è soprattutto il momento in cui viene stipulata l'alleanza tra Abramo, tra Dio e Abramo e tutta la discendenza di Abramo, in quel famoso episodio in cui vengono tagliati, se ricordate, tutta una serie di animali a metà e poi viene detto ad Abramo di passare in mezzo e Abramo invece non ce la fa passare in mezzo a questi animali, anzi viene preso da affaticamento, si addormenta mentre in mezzo a questi animali passa solo una fiamma di fuoco che rappresenta appunto Dio. E praticamente quello che sigilla questa alleanza, il passare in mezzo agli animali, era: io mi impegno fino al punto che se non mi impegno sono disposto a fare la fine di questi animali. Bene, l'unico che prende l'impegno in quella scena non è Abramo, l'unico che prende l'impegno con il suo popolo è Dio, e Dio stipula unilateralmente la sua alleanza. Quando noi arriviamo al momento del Sinai, è vero che Dio chiede una risposta al popolo, una risposta di impegno al popolo, ma su questa risposta di impegno al popolo, che si rivela costantemente fragile e fallimentare, perché sulla risposta del popolo non si può fare affidamento, Dio riconferma la promessa fatta a suo tempo sotto il segno della solidità. Quella solidità che è rappresentata anche dalle tavole incise sulla roccia, quindi da un lato abbiamo un popolo fragile che mormora, che crolla, che si lascia prendere costantemente dalla tentazione di guardare indietro, dall'altro abbiamo un Dio solido, il cui amore è solido, la cui testimonianza di fedeltà è solida, per cui sì, è un'alleanza bilaterale, però questa alleanza bilaterale è sproporzionata e noi viviamo di questa sproporzione. Nel momento in cui Paolo dice noi non viviamo più sotto la legge ma sotto la grazia, cosa resta di quell'alleanza? Resta tutto perché Paolo lo dice, la legge non viene annullata, la legge però è come una sorta di pedagogo, è quel maestro necessario, tenete presente, è un maestro necessario che ci conduce a Cristo, Cristo è la grazia, però per arrivare a Cristo è necessario passare dalla legge e il passaggio dalla legge, anche qua lo dobbiamo intendere, non tanto come l'osservanza dei comandamenti, ma come l'esperienza di un amore che ci precede e che trova la sua risposta nell'osservanza, questa osservanza ci porta a Cristo, quindi l'osservanza della legge è una risposta ad un amore che ci precede, che è l'amore di Dio, ed è quello che noi vediamo concretamente nelle vicende che sono narrate proprio da Stefano. Paolo utilizzerà queste stesse immagini per sé, perché Paolo dice guardate io facevo della legge la mia norma principale, non c'era nessuno che era zelante quanto me, irreprensibile quanto all'osservanza, dirà, no? Però nella lettera ai Galati dirà quando non ero ancora fin nel grembo di mia madre, no? Si fa riferimento a Geremia, quando ero più lontano, Dio si è rivelato a me, quindi quando meno me lo meritavo, Dio si è rivelato a me, e questo ha innescato un modo totalmente diverso di vivere la dimensione dell'osservanza della legge, l'ha vissuto dando quella priorità ad un amore che mi precede e che lentamente in una risposta mi porta alla scoperta di Cristo. Lo dice proprio all'inizio della lettera ai Galati, quando ripercorre la sua esperienza. Quindi di quella legge nulla viene buttato via. Lo stesso Gesù dirà, non sono venuto per rinnegare la legge, ma per dare compimento. Nessuno iota viene annullato. Di quella legge resta tutto, però viene ridata vita all'anima, all'anima che risplende alla base della legge. Quindi spero su questo di essere stato chiaro, perché questa visione delle cose ci porta anche a un grande rispetto nei confronti dei nostri fratelli ebrei, perché praticamente nella legge, scavando dietro quelli che sono le 10 parole e tutti i comandamenti che poi sono, si sono declinati alla luce delle 10 parole, c'è già in nuce tutto quello che poi verrà portato a manifestazione dall'insegnamento, dalla vita e dal messaggio di Gesù. C'è già in luce, perché Dio non è che rinnega se stesso, le sue parole o le sue promesse. È un cammino che porta sempre più a rivelazione quello che risplende nella figura e nell'insegnamento di Gesù. Grazie di cuore, Bruno, per questa domanda. Pronto? Pronto, Don Giacomo? Sì, buonasera. Buonasera, sono Lelio da Milano. Ascolti, la ringrazio per la sua meravigliosa catechesi e per le sue parole così edificanti. La mia era una domanda, intanto sul Vangelo di ieri dei talenti, che mi sembra molto bello. Credo, Don Giacomo, che il mio talento sia la preghiera e che io debba mettere la frutto. Poi una domanda alla sofferenza offerta per con l'accettazione per le anime abbandonate del purgatorio, acquista un valore redentivo. Io sto leggendo molto Santa Gemma Galgani, il libro Sola con Gesù Solo, poi e vedevo che l'amore di Dio che avevano questi santi, questa mistica, è paragonato all'amore dell'innamorato con l'innamorata, nel senso che nel momento in cui uno dei due non corrisponde, nasce proprio un abisso, il vuoto, l'assenza, l'aridità, tutte queste cose, no? E allora la mia domanda, poi leggendo anche Chiara Luce Badano, di cui ho una grande stima per questa beata, ho visto proprio che questa altra sposa di Gesù, no? C'era proprio in queste ragazze, in queste mistiche, come una devozione totale all'amore abbandonato che a volte è rifiutato, che sta lì nel tabernacolo, che non è riamato, no? Allora volevo proprio fare questo, l'amore non riamato, l'amore non voluto, era quello che hanno scoperto i grandi mistici, che l'hanno trovato proprio in Dio stesso, nell'amore, nell'aderenza totale a Dio, no? Invece come possiamo rapportarci noi rispetto a queste figure che ci sono di esempio di amore totale, a un amore al sacramento, al Sacro Cuore, alla mistica del Sacro Cuore, dentro un contesto di maggiore normalità, di esperienza umana, di vita rispetto a queste mie, e come ci possono servire ad esempio. Ecco, grazie Don Giacomo, l'ascolto per Ra. Grazie di cuore, Delio, prima di tutto per la testimonianza, no, di quello che è il talento che tu senti su di te, il talento della preghiera, che immagino sia una preghiera carica di volti, di storie, cioè una preghiera che diventa intercessione per molti. E dall'altro anche grazie per questa testimonianza di una vita cristiana vissuta in compagnia di belle figure. Pensate, il mio fondatore, Don Giacomo Alberione, sottolineava sempre che nel cammino di fede bisogna cercare la compagnia dei santi, lo dice proprio all'inizio di uno dei suoi testi, il cui titolo è espressivo, Donec formetur Christus in vobis, essere cristiani significa arrivare alla formazione del Cristo in noi, punto. E quando si muovono i primi passi bisogna cercare la compagnia dei santi, come lei dice bene, quindi ha parlato di Gemma Galgani e di altre figure che vivevano intensamente questa preghiera. Vede, Delio, quando noi meditiamo sul mistero dell'Eucaristia, così come viene narrato nella scrittura, cosa troviamo? Notiamo che l'Eucaristia viene istituita e donata in un contesto che è segnato dal rifiuto, esatto, e dall'ignoranza, perché nel momento in cui Gesù vive quell'ultima cena con i suoi discepoli, il primo che intinge il pane nel piatto non è altro che Giuda, il primo che riceve il segno di quel pane che è il corpo di Gesù, mentre gli altri non sono coscienti, e quasi non vogliono esserlo, di quello che sta succedendo. Vale a dire, il mistero del nostro discepolato, se è autentico discepolato cristiano, e qua permettimi di sottolineare che questo è facile dirlo, poi viverlo è un'altra cosa, bisogna proprio essere molto radicati in Cristo per vivere queste cose. Vivere il discepolato cristiano significa passare da questa esperienza. Chi ama l'Eucaristia è una persona, un uomo, una donna, che sa immergersi nel mistero fino al punto di riuscire ad amare anche quando questo amore non è corrisposto. L'autentica preghiera porta lì, perché da soli noi questa dimensione non riusciamo a viverla. I grandi mistici normalmente sono anche persone che hanno vissuto, come dire, delle pagine di incomprensione molto, molto dure, molto difficili, ma la cui incisività nel loro oggi è stata potente. Immaginate, non cito Gemma Galgani o le altre figure che lei ha citato perché non le conosco così bene come altre figure, ma se noi prendiamo Teresa di Lisieux non è che nel convento in cui viveva con l'accoglienza da parte di tutte, eppure la sua preghiera che l'ha portato a immergersi costantemente nel mistero di Cristo non solo è stata in grado di abbracciare il mondo del tempo, patrona dei missionari, ma addirittura di trasformare quelli che erano le esperienze di rifiuto in un motivo in più per entrare nel cuore di Cristo, nel cuore di Cristo. E anche spesso nella storia delle fondatrici o delle sorelle della prima ora di alcune congregazioni notiamo il passaggio da questa esperienza, che è un po' l'esperienza quasi di una notte oscura, dove vivono il rifiuto da parte magari delle sorelle, da parte dei ministri della Chiesa, da parte delle autorità ufficiali, vengono in alcuni casi addirittura respinte, per poi solo un domani riscoprire che dietro questo passaggio c'era il passaggio di un Dio che lo conformava sempre di più a sé. Come si arriva a questo? Era la sua domanda. Penso che per ognuno ci sia una strada, non si può tracciare una strada uguale per tutte, ognuno ha un suo percorso, per ognuno il Signore ha tracciato una via, l'importante è chiedere allo Spirito di aiutarci a percorrerla con sapienza, mai da soli, ecco in questo caso il confronto con una guida spirituale è sempre doveroso. E il criterio di verifica è sempre questo, la preghiera è autentica quando la preghiera diventa incisiva nel mio oggi e accoglie volti e situazioni della storia che io vivo. Non è solo un io e il mio Dio mi porta sempre dai miei fratelli e quindi è un immergermi in Dio per immergermi ancora di più nel suo amore, nella sua passione per l'uomo. Grazie Dedio per la tua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Maria da Milano. Sì. Le domande che voglio farle, Don Giacomo, sono tre. Prima, da quello che ho capito bene, Stefano è stato il primo a essere martire, perché c'era ancora questo ardore della parola, perciò lui ha rischiato tutto nel suo modo di parlare e l'hanno praticamente ucciso. Un po' come Gesù, no? I 10 comandamenti, io continuo a dire a tutto ogni tanto, anche da voi quando mi prendo la linea, sono stati trasgrediti da tutti e questo è il fulcro di questa umanità che non riesce ancora a capire e a fare le cose come si deve, perché credevano che la legge era stata data soltanto agli ebrei, invece è stata data a tutti. E i 10 comandamenti sono l'amore, non sono negativi ma sono positivi, nessuno praticamente quasi, a parte i martiri, a parte i santi, gli altri diciamo che tutti noi, anche noi, che io li amo, trasgrediti, e che è la legge. E terzo è che il Signore vuole stare con noi nello spirito, perché alla donna che ha incontrato con la Trinitana ha detto: non c'è bisogno del tempio, dello spirito, e sei tu che devi entrare in me e tu in te, e io in te. Perché il problema è che qui preghiamo, preghiamo, ma è nella spiritualità che si incontra il Cristo. E io sto facendo un lavoro di ricerca che è molto faticoso, Don Giacomo, non è facile, come dice lei, non è facile, è un discorso continuo con le nostre esperienze, con quello che stiamo vivendo in questo momento, con la vita che ognuno, quella che ha, chi è sposato, chi ha i figli, sono sposata, nella malattia, così. È una ricerca continua, questa è la mia domanda, perché le scritture sono molto difficili e non è facile eseguirle tutte. Cosa ne pensa lei? Buonasera, l'ascolto per radio. Allora, la ringrazio per il suo intervento, anche se non ho capito bene quali erano le tre cose che mi voleva dire. Tengo sostanzialmente due elementi del suo intervento. Il primo è quando lei dice: va bene, i 10 comandamenti ci sono stati dati, ma tutti li hanno trasgrediti. Possiamo anche vedere la cosa da un altro punto di vista, cioè il bicchiere può essere sempre visto, no? Dal lato mezzo pieno o mezzo vuoto. Tutti li hanno trasgrediti, ma noi abbiamo avuto anche dei campioni chi uno, chi l'altro hanno dato splendore ai singoli comandamenti. E quando noi guardiamo il calendario liturgico con l'elenco dei santi e dei beati che ogni giorno la liturgia della Chiesa ci propone, noi qui abbiamo dei campioni che hanno fatto risplendere non solo i comandamenti, le 10 parole, ma l'anima che sta dietro queste 10 parole. E allora è bello fare un cammino sentendosi in buona compagnia, come ci invitava a fare Delio prima, essere nella buona compagnia dei santi, di coloro che questi comandamenti, chi in un modo, chi in un altro, chi sottolineando un aspetto, chi sottolineando un altro, li ha vissuti, incidendo sulla storia non solo del loro tempo, ma anche la storia successiva, perché il beneficio di questa vita vissuta in sintonia con Dio e con le 10 parole che Dio ha dato, torna a beneficio nostro quando ripercorriamo la loro storia. Come lei diceva, la seconda cosa che trattengo del suo intervento, una ricerca difficile, come si fa a perseverare in questa ricerca? Allora, le ricerche sono sempre difficili e proprio questo è il bello della ricerca di Dio, no? Che rappresenta una sfida per ciascuno di noi, ma quando per grazia di Dio, sotto la guida di coloro che ci hanno preceduto, grazie alla presenza premurosa di Maria, in questa ricerca noi riusciamo a cogliere una luce, un aspetto, un elemento, queste cose che noi cogliamo proprio perché la ricerca è difficile diventano delle perle preziose, che non solo ci fanno gioire, ma ci stimolano ad una ricerca ancora più dinamica. Se la nostra fede non fosse ricerca, la nostra fede si spegnerebbe lentamente. La ricerca è ciò che la tiene viva e ciò che ci permette di camminare in quella continua conversione necessaria perché il discepolo sia tale. Se noi ogni giorno non scopriamo un qualche cosina del nostro cammino di fede e se noi ogni giorno non rinnoviamo la nostra ricerca di Dio, la nostra fede è a rischio. E allora chiediamo al Signore e allo Spirito che dimora in noi di tenere vive queste dimensioni. Grazie anche a lei che ha chiuso un pochino i nostri interventi. Quindi, visto che il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio quanti sono intervenuti nella nostra trasmissione: Maria Teresa di Como, Luigina di Abbano Terme, Bruno di Napoli, Delio di Milano e l'ultima nostra ascoltatrice. Grazie di cuore per i vostri interventi e concludo proprio con l'augurio dell'ultima riflessione che ci è stata data, che lo Spirito tenga viva la nostra ricerca, soprattutto ora che si apre o si è già aperto per alcuni il tempo dell'Avvento. Buon cammino a tutti, ci risentiamo tra un mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.